5. I sentimenti che prova la merce umana cambiando padrone. Il signore e la signora Shelby si erano allora ritirati nel loro appartamento. Sdraiato sopra una comoda poltrona, il signor Shelby scorreva alcune lettere recategli dal Corriere della Sera, mentre sua moglie, in piedi dinanzi allo specchio, scioglieva le grosse trecce e i ricci che Elisa le aveva aggiustati con tanta cura. Perché la signora Shelby, accortasi del pallore e dell'abbattimento della sua cameriera, l'aveva per quella sera dispensata dal suo servizio e mandata a coricarsi. Quella sua insolita occupazione le fece tornare a mente il colloquio avuto la mattina con la giovane meticcia e, rivoltasi al marito, gli domandò con indifferenza: «A proposito, Arturo, chi era quel volgare individuo che hai condotto a pranzo oggi?» «Oh, è un certo Haley», rispose Shelby muovendosi sulla poltrona senza distogliere gli occhi da una lettera. «Haley? Chi è costui? E quali affari può avere con te?» «È un uomo col quale trattai alcuni interessi nel mio ultimo viaggio a Natchez. Ed egli, come fosse di casa, è venuto senza tanti complimenti a chiederti da pranzo? Ma benissimo!» «No, l'ho invitato io. Avevamo alcuni conti da regolare insieme.» «Sarebbe mai un mercante di schiavi?» chiese la signora Shelby, avvedutasi dell'imbarazzo di suo marito. «Mia cara, chi ti ha suggerito quest'idea?» domandò il signor Shelby alzando gli occhi dalla lettera. «Nessuno, solamente Elisa è venuta a trovarmi dopo pranzo, tutta agitata. Ella asseriva che tu stavi parlando con un mercante di schiavi e che questi ti proponeva di vendergli il suo figlioletto. Si può immaginare una simile puerilità?» «Davvero?» disse il signor Shelby, rimettendosi a leggere con la più grande attenzione, senza vedersi che teneva la lettera a rovescio. «Bisognerà pure alla fine dire la verità», pensava frattanto, «tant'è che io lo faccia subito.» «Io ho dato all'Elisa di pazza», continuò la signora Shelby, ravviandosi i capelli col pettine, «e le ho assicurato che tu non hai nulla a che fare con quella razza di gente. So bene che tu non avresti mai il pensiero di vendere alcuno dei nostri schiavi, specialmente poi ad un tale individuo.» «Infatti, Emilia, io ho sempre pensato e sentito come te sopra questo argomento, ma i miei affari sono in tale stato, mia cara, che io mi trovo costretto di venire a questo. Sarò obbligato a vendere qualcuno dei miei servi.» «A quell'individuo? Oh, impossibile, amico mio, tu non parli da senno.» «Ahimè, sì, purtroppo. Io ho fatto contratto per Tom.» «Che? Tom? Quel buono, quell'eccellente servo, colui che ci servì con tanta fedeltà fin dalla prima infanzia? Oh, amico mio, non gli avevi promesso di dargli la libertà? Non abbiamo parlato di ciò mille volte. Oh, adesso nulla più mi riesce strano, e credo che tu sia anche capace di vendere il piccolo Enrico, l'unico figlio della povera Elisa», aggiunse ella con un accento di dolore misto a indignazione. «Ebbene, poiché bisogna che tu sappia tutto, sì, è vero, ho venduto Enrico e Tom. Tuttavia, io non mi credo un mostro per aver fatto una volta quel che gli altri fanno tutti i giorni.» «Ma perché scegliere questi due? Non ne avevi altri se eri proprio costretto a vendere.» «Perché? Perché essi valgono di più. Io posso vendere Lisa se lo preferisci, poiché quell'individuo mi ha fatto magnifiche offerte per lei.» «Sciagurato!» esclamò la signora Shelby. «Cara Emilia, io non ebbi un solo istante il pensiero di farlo per tuo riguardo e tu devi essermene grata.» «Caro mio», replicò con più calma la signora Shelby, «perdonami. Sono stata troppo violenta, lo vedo, ma una tale notizia mi giunge così inaspettata. Concedi però che io interceda in favore di quegli infelici. Tom ha un bell'essere nero, egli un nobile cuore, un serve fedele e affezionato. Egli verserebbe tutto il suo sangue per te se occorresse.» «Lo so, ne son certo, ma che giova ricordarmelo, io non posso farci nulla.» «Ma non potresti fare qualche altro sacrificio? Io ne sopporterei la mia parte con gioia. Oh, Arturo, io feci quanto era in me per adempiere da buona cristiana il mio debito verso questi poveri schiavi. Da molti anni ho preso gran cura di essi, li ho educati, ho vegliato su loro, ho condiviso i loro minimi affanni, ho goduto delle loro minime gioie. E adesso, in quel modo, oserò guardarli in volto dopo che per un vile guadagno noi vendiamo un uomo di tanta bontà, di tanta virtù, di tanta fede come quel povero Tom, e lo stacchiamo d'improvviso da tutto ciò che gli abbiamo insegnato ad amare e rispettare. Io ho insegnato ad essi i loro propri doveri come padri di famiglia, come sposi, come mariti, e or sarà detto che questi sacri legami sono un nulla per noi di fronte al denaro? Io ho ragionato con Elisa dei suoi doveri di madre cristiana. Le ho raccomandato di vigilare sopra suo figlio, di pregare per lui, di educarlo piamente. Che cosa le dirò se tu glielo strappi dal seno? Per un po' d'oro lo vendi corpo e anima a un uomo empio e senza principi? Io le ho ripetuto tante volte che un'anima vale più di tutto l'oro del mondo. Mi crederà ella adesso se io vendo il suo figlioletto? Se lo vendo per la rovina del suo corpo e forse per la rovina della sua anima? In verità, Emilia, io sono dolentissimo di vederti pigliar la cosa in tal modo. Rispetto i tuoi sentimenti e le tue massime, benché non sia in ciò interamente del tuo avviso, ma lo ripeto, io non posso farci più nulla. Non c'è mezzo termine, bisogna vendere quei due o tutto il resto. Alcune cambiali sono cadute nelle mani di Haley e se non pago subito sono rovinato. Ho preso a prestito, ho fatto denaro di ogni cosa superflua, ma il prezzo di questi due schiavi era indispensabile per compiere la somma. Haley si è incapricciato di questo fanciullo e non ha voluto conchiudere senza averlo. Se la vendita di questi due schiavi ti reca tanto dolore, che cosa avresti detto se fosse stato necessario di vender tutto? La signora Shelby restò come di pietra. Finalmente, sedutasi alla toiletta, appoggiò la testa nelle mani e lasciò sfuggire dal petto un gemito doloroso. Ecco, la maledizione di Dio sulla schiavitù. Maledizione per il padrone, maledizione per lo schiavo. Insensata! Io credevo che si potesse trarre bene da questo male senza rimedio. È un delitto possedere schiavi sotto leggi quali sono le nostre. Credevo, a forza di cure, di bontà e di istruzione, di rendere la condizione dei miei schiavi preferibile alla libertà. Insensata, insensata. Ma cara, tu divieni abolizionista assoluta? Tale sono sempre stata. Non ho mai considerato la schiavitù come cosa legittima e mi è sempre incresciuto di possedere degli schiavi. Ma in ciò tu non sei d'accordo con molti uomini saggi e pii. Ti ricordi il sermone che fece il ministro Domenica? Oh, me ne ricordo, e non mi preme punto di ascoltare altri siffatti sermoni. Senza dubbio i ministri non possono impedire il male, né possono, più che noi medesimi, rimediarvi, ma difenderlo. Del resto tu stesso non approvasti il sermone di cui parli, se ho buona memoria. Confesso, replicò il signor Shelby, che questi ministri spingono talora le cose più in là di quanto poveri peccatori quali noi siamo ardirebbero fare. Noi altri uomini di mondo siamo spesso costretti a chiudere gli occhi o a passare sopra certe cose che non sono pienamente giustificabili, ma non ci piace che i ministri e le donne trattino questi argomenti in lungo e in largo e si mostrino in fatto di morale più arrendevoli e più indulgenti di noi medesimi. Intanto, mia buona amica, ma auguro che tu capisca come io abbia operato nel miglior modo che è stato possibile e che le circostanze non mi hanno lasciato altra alternativa. Sicuramente, rispose la signora Shelby con distrazione, prendendo fra le dita il suo orologio. Io non ho alcun gioiello di prezzo, soggiunse ella con aria pensosa. Ma questo orologio non potrebbe servire a nulla? Era un oggetto di valore allorché fu comprato. Oh, se io potessi salvare almeno il figliuolo di Elisa! Darei con piacere tutto quello che ho. Emilia, disse il signor Shelby, sono veramente desolatissimo che ciò ti stia tanto a cuore, ma è inutile. Il fatto è compiuto. Gli atti di vendita sono tra le mani di Haley. E tu puoi, te ne accerto, ringraziare Iddio che il male non sia più grande. Costui avrebbe potuto mandarci tutti in rovina. Se tu lo conoscessi come io conosco, come lo conosco io, vedresti anche tu che siamo scampati da un gran pericolo. È tanto crudele? No, a rigor di termine no, ma è un uomo indurito, un uomo che non respira se non traffichi e guadagni, persistente e insaziabile quanto la morte e il sepolcro. Egli venderebbe la propria madre se gliene venisse un utile e senza voler fare del male alla povera vecchia. E questo disgraziato possiede il nostro bravo ed eccellente Tom e il figliuolo di Elisa. Ne sono afflittissimo, lo confesso. Non ardisco pensarvi. Haley vuol compiere l'affare d'entrare in possesso fin da domani. Per me io sarò a cavallo di buon mattino e me ne andrò. Davvero non ho il coraggio di rivedere il povero Tom. Stessa Emilia, faresti assai bene di proporre una gita e menare Lisa con te affinché la cosa succeda in sua assenza. No, no, disse Emilia, io non voglio avere alcuna complicità in questa barbarie. Io andrò a trovare il mio buon Tom e così Dio si degni di alleviare la sua angoscia. È bene che si vedano almeno che la loro padrona può soffrire con loro e per loro. Quanto a Elisa, io non oso pensarvi. Dio ci perdoni, ahimè, che cosa dunque abbiamo fatto per attirarci sì grande sciagura? I coniugi Shelby non avevano alcun sospetto che orecchi estranei spiassero il loro colloquio. Un gabinetto che dava sul corridoio comunicava col loro appartamento. Allorché Elisa fu mandata dalla sua padrona a coricarsi, l'accesa sua fantasia le aveva suggerito l'idea di celarsi in quel gabinetto e messo l'orecchio contro la fessura di un uscio. Ella non aveva perduto una sillaba di quel colloquio. Quando ogni cosa ritornò in silenzio, ella uscì senza strepito, pallida, tremante, con le labbra serrate e con animo risoluto. Elisa non rassomigliava più alla timida e mite creatura che era stata conosciuta fino a quel giorno. Tacita e leggerissima, percorse il corridoio, si fermò un istante dinanzi alla porta della padrona, alzando le mani come per prendere il cielo a testimone, e rientrò furtivamente nella sua camera. Era una graziosa stanzetta del medesimo piano. Qui la finestra esposta al sole, vicino alla quale poche ore prima la giovane meticcia lavorava cantando, là alcuni libri guarnivano gli scaffali di una piccola biblioteca sopra cui si vedevano altresì ninnoli, trastulli e altri lavoretti di fantasia, regalucci delle feste di Natale. Entro al cassettone e nell'armadio stavano tutti i suoi vestiti. Insomma, quella era la sua modesta dimora. Ed Elisa vi aveva passato ore felici. Ma là, su quel letto, dorme il suo figliolino. Le anella dei suoi capelli gli scendono sulle rotonde guance, la rosea bocca è socchiusa, le mani paffutelle riposano sulla coltre e un sorriso, come raggio di sole, rischiara il volto angelico. Povero Enrico, povero figlio mio, ti hanno venduto, ma tua madre ti salverà. Non una lacrima cadde sopra il guanciale. In tali momenti il cuore non ne ha pur una da versare. Il cuore non ha allora che sangue e lo versa stilla a stilla in silenzio. Elisa prese una matita e si pose a scrivere in fretta. Oh padrona, mia cara padrona, non credetemi ingrata, non mi giudicate con troppa severità. Ho udito tutto ciò che voi e il mio padrone avete detto e tento ora di salvare mio figlio, ma voi, ah no. Voi non mi biasimerete, così Dio vi benedica e vi ricompensi di tutte le vostre bontà. Dopo aver piegato rapidamente questo biglietto e scrittovi l'indirizzo, Elisa trasse dal cassettone alcuni vestiti, li pose in una pezzuola che la s'annodò fortemente alla vita e tale è la tenera sollecitudine di una madre che in quegli istanti di terrore ella pensò perfino a prender seco il balocco preferito del fanciulletto, un pappagallo di cartone dipinto a vivi colori che fu destinato ai trastulli di Enrico quando si fosse destato. Elisa durò qualche fatica a svegliare il piccolo dormiente, ma dopo alcuni sforzi Enrichetto aprì gli occhi e si pose a baloccarsi con l'uccello dipinto, intanto che sua madre completava i preparativi del loro viaggio. «Dove vai, mamma?» domandò egli quando Elisa s'avvicinò per vestirlo. Sua madre fissò gli occhi nei suoi guardandolo così seriamente che Enrichetto capì subito come qualche cosa di straordinario avvenisse. «Zitto, Enrico», disse ella. Parla più sommessamente che puoi, se no ci udirebbero. Un cattivo maccio vuol portar via il mio Enrichetto, lontano, lontano dalla sua mamma, in un logaccio nero, nero. Ma zitto, la mamma non vuole. Ella gli metterà il suo cappello, il suo mantellino e fuggirà col suo caro bimbo, e così quel brutto maccio non lo porterà via. Mentre parlava, Elisa andava vestendo il fanciullo e, vestito che l'ebbe, lo prese tra le braccia, raccomandandogli il più assoluto silenzio. Uscì poi con gran precauzione dalla porta della veranda. La notte era fredda e chiara, il cielo era seminato di stelle. La povera madre avviluppava strettamente il suo figliolino nello scialle, mentre, muto dallo spavento, egli le allacciava il collo con le braccia. Al loro appressarsi, il vecchio Bruno, grosso cane di Terranova, fece udire un sordo brontolio. Elisa lo chiamò a bassa voce e il fedele animale, suo antico compagno di giochi, si pose a seguirla, dimenando la coda. Ben pareva che egli, nella sua mente di cane onesto, andasse fantasticando sul significato di questa insolita passeggiata notturna, poiché, mentre Lisa camminava innanzi pian piano, Bruno si fermava di quando in quando e guardava, quasi volesse interrogarla, ora la giovane sua amica e ora la casa. Poi, rassicurato probabilmente dalle sue riflessioni di cane, si rimetteva sulle tracce di quella. In pochi minuti giunsero alla capanna dello zio Tom ed Elisa bussò leggermente ai vetri della finestra. L'adunanza religiosa e i canti devoti avevano durato fino a tardi, siccome quando l'assemblea fu sciolta lo zio Tom rimase lì solo a meditare fino ad ora avanzata, accadde che in quel momento, benché fosse oltre la mezzanotte, né lo zio Tom né la sua degna metà dormivano ancora. «Dio buono! Che c'è?» esclamò la zia Chloe alzandosi all'improvviso e tirando la cortina in gran fretta. «Misericordia, credo che sia Elisa! Su!» «Indossa i tuoi abiti, vecchio mio, e presto!» «Oh, guarda, c'è anche Bruno che raspa anch'esso all'uscio! In nome del cielo, che c'è mai? Vado ad aprire!» E detto fatto, la zia Chloe aperse la porta. Il lume che lo zio Tom aveva acceso in quel mentre nella camera rischiarò il viso pallido e gli occhi scuri e smarriti della fuggiasca. «Signore, hai una cera che mi fa paura, Elisa, stai male? Che ti è accaduto?» «Io fuggo, zio Tom, zia Chloe, e porto via me con mio figlio, il nostro padrone lo ha venduto.» «Venduto?» gridarono quelli con un gesto di spavento. «Sì, venduto», ripeté Elisa con voce ferma. «Questa sera, celata nel gabinetto attiguo alla camera della signora, ho udito il padrone dirle che egli aveva venduto il mio Enrico e voi, zio Tom, a un mercante di schiavi. Egli ha l'intenzione di allontanarsi stamani, intanto che il mercante verrà qui a prendervi.» Durante questo discorso lo zio Tom era rimasto attonito e con le mani alzate. Dapprima gli parve un sogno, ma quando poi ebbe colto il senso delle parole di Elisa, cadde sopra una seggiola e si prese il capo con le mani. «Il Signore abbia pietà di noi!» esclamò la zia Chloe. «Ma no!» ella soggiunse. «Non è possibile! Che ha fatto egli dunque per meritarsi che il padrone lo venda?» «Nulla ha fatto, il padrone vorrebbe pure tenerlo seco, e la signora, oh, se l'aveste udita, pregare e supplicare per voi!» Ma egli le rispose che tutto era inutile, che egli si trovava a discrezione di quell'uomo, e che se non vi vendeva, zio Tom, sarebbe stato costretto a disfarsi di ogni cosa sua e a sgombrare di qua. E la padrona, che angelo, se non è cristiana lei, non ve ne fu altra giammai. «Vedo che faccio male abbandonandola, ma posso fare diversamente?» Non disse la stessa che un'anima vale più del mondo intero? Questo fanciullo ha pur esso un'anima. E se io lo cedessi loro, chissà che cosa ne avverrebbe. Non sono colpevole io, no. Ma se fossi tale, il Signore abbia pietà di me, perché non saprei fare altrimenti. «Ebbene, mio povero vecchio», disse la zia Chloe, «perché non te ne vai anche tu? Aspetterai che ti facciano scendere a seconda del fiume, sin colà dove si ammazzano i neri sotto il peso del lavoro, o si fan morire di fame? Io vorrei cader morta piuttosto che andarvi. Oh, parti con Elisa. Non hai tu il passaporto per recarti dove ti pare e piace? Su, via, presto. Vado a preparare il tuo fagotto.» Tom alzò il capo, volse intorno lo sguardo triste ma pacato e disse: «No, no, io non posso andare. Elisa parta, ne hai il diritto. Non sarò io quegli che vi si opponga. Sarebbe per ella contro natura rimaner qui. Ma tu hai udito ciò che ella ha detto. Mi vendano dunque, già che bisogna, purché non si venda tutto il resto. Non sono io forte al pari di un altro per sopportare questa sventura?» soggiunse egli, mentre un sospiro o alcunché di somigliante a un singhiozzo scuoteva convulsamente il suo largo e rude petto. «Il padrone mi trovò sempre al mio posto, e sempre mi ci troverà. Non ho mai tradito la sua fiducia, mai la tradirò. È meglio che io vada via di qua. Non biasimo il nostro padrone, Chloe, egli avrà cura di te e dei...» Si voltò verso il rozzo tettuccio dove riposavano le piccole teste, coi ricciuti e fitti capelli, e il cuore gli si spezzò. Appoggiato il dorso alla seggiola, egli si coprì il viso con le larghe sue mani. Profondi singhiozzi, singhiozzi sordi e strazianti, fecero tremare la seggiola, e grosse lacrime scorrevano giù per le sue dita sopra il pavimento. Lacrime del tutto simili a quelle, o lettore o lettrice, quali a voi le farebbero spargere i gemiti del vostro bimbo agonizzante, poiché, o lettore, egli era uomo, e voi non siete che un altro uomo, e voi, lettrice, benché tutta coperta di oro o di seta, voi pure non siete che una donna, e gli affanni, i tormenti e gli affetti sono uguali per tutti a questo mondo. Ora sappiate disse Lisa nel punto di andarsene, che io vidi ieri sera mio marito, ma io non sapevo qual sorte mi aspettasse. Egli fu spinto agli estremi e pensa di fuggire. Deh, fate di vederlo, narrategli la mia partenza, ditegli che io procurerò di giungere al Canada e se non dovessi più rivederlo. Volse altrove la faccia e continuò con voce tremula. Ditegli d'agir bene, affinché possiamo ritrovarci lassù nel regno dei cieli. Chiamate Bruno, riprese, e chiudete poi l'uscio, povera bestia, non conviene che mi segua. Si scambiarono fra loro alcune parole di addio e di benedizione. Indi e Lisa, strettasi al cuore il figlio attonito e spaventato, s'allontanò da quella dimora. 6. Scoperta della fuga. I coniugi Shelby, dopo la loro discussione assai prolungata, non s'addormentarono subito e perciò si destarono più tardi del solito. «Che fa mai, Elisa?» disse la signora Shelby, suonato che ebbe più volte il campanello. Il signor Shelby stava affilando un rasoio ritto dinanzi allo specchio e in quel momento un giovane mulatto gli recava una catinella d'acqua calda. «Andy!» disse rivolta a lui la padrona. «Bussa alla camera d'Elisa e dille che ho suonato 3 volte, povera creatura!» soggiunse poi sottovoce, mandando un sospiro. Andy tornò correndo con gli occhi spalancati e ansante di stupore. «Dio, signora, i cassetti di Elisa sono tutti aperti e le sue robe sparse alla rinfusa. Si direbbe quasi che sia fuggita.» La verità corse rapida come un baleno alla mente dei coniugi Shelby. «Sospettava ella dunque qualche cosa?» disse affannato il signor Shelby, «per essersi data alla fuga.» «Oh, sia lodato Iddio!» esclamò la signora Shelby. «Moglie mia, tu parli da insensata!» «Ecco! Veramente un bell'imbroglio per me. Egli si accorse che titubavo nel vendere il fanciullo e mi crederà complice di questa fuga. Ne va del mio onore.» E così dicendo uscì a precipizio. Per un quarto d'ora non vi fu che scompiglio e trambusto fra gli schiavi di tutte le tinte. Era un andirivieni, un esclamare, uno strepito di voci, un aprire e un serrare gli usci di tutte le stanze. La sola persona che avrebbe potuto dare qualche lume sopra questo mistero, la zia Clo, stavasene muta. Un velo di tristezza le copriva il viso. Ordinariamente, sì, giulivo, e tutta affaccendata intorno ai preparativi della colazione, ella si mostrava impassibile tra l'agitazione e il subbuglio che regnava intorno. Tosto, una dozzina di ragazzetti neri si posero a cavalcioni sul parapetto della veranda come corvi di tristo augurio, sperando ciascuno di poter annunziare per il primo al padrone straniero la sua sventura. «Ci giocherei il mio naso che diventa pazzo», diceva Andy. «Che bestemmie tirerà», soggiunse il piccolo Jake. «Oh, per questo non durerà gran fatica a farlo», osservò la giovane Mandy dalla testa ricciuta. «Lo udii ieri. Me ne stavo nascosta e quatta quatta nello stanzino dove la padrona ha messo le damigiane. Intesi tutta la faccenda e non me ne sfuggì una sillaba.» E Mandy, che in vita sua non aveva mai fatto una riflessione sulle cose da lei udite e che era si cacciata fra le damigiane non per ascoltare ma per dormicchiarvi un poco, si diede, così dicendo, un certo sossiego. Appena comparve Haley in stivali e speroni, fu da ogni parte salutato con l'annunzio della trista novella. Quei negrucci non restarono delusi nella loro speranza di vederlo infuriarsi e dir bestemmie, poiché egli si diede a sciorinare con tal correntezza ed energia che era un incanto per essi. Fu gran ventura che, per evitare i colpi di scudiscio, si curvassero fino a terra e balzassero ora da una parte ora dall'altra. Finalmente riuscì loro di scamparla e corsero a lanci e al suono di fischiate unanimi a sgambettare sull'erba presso la veranda. Proruppero quivi in gran schiamazzi di gioia con accompagnamento di capitomboli e dati di scherno. «Ah, piccoli demoni, se potessi agguantarvi!» mormorò Haley fra i denti. «Ma non ci agguanterete», rispose Andy facendo un gesto di trionfo e molte smorfie grottesche dietro le spalle dell'infuriato mercante. «Oh, in verità questa è un'avventura singolare», disse Haley entrando senza cerimonie nella sala. «Pare che quella meticcia e il suo scimmiotto se la siano battuta.» «Signor Haley, v'avverto che siete dinanzi a mia moglie.» «Perdono, signora», borbottò Haley inchinandosi leggermente con una certa malagrazia. «Ad ogni modo, ripeto che è un'avventura ben singolare. Che ne sembra, lor signori?» «Se vi piace trattare meco», ripigliava Shelby, «si usano maniere quali si addicono a persone educate. Andy, togliete a questo signore l'impaccio del cappello e dello scudiscio. Sedetevi, signore.» «Sì, certo. Mi duole dovervi dire che la giovane, eccitata dalla troppo ardente immaginazione per quello che le deve essere stato riferito, non saprei come, di questa faccenda, ha tolto sé col figlio questa notte ed è scomparsa. Io mi aspettavo da voi, in questo affare, lo confesso, un procedere più leale, disse Haley. Come, signor mio? Ribatté Shelby, voltandosi vivamente verso di lui. Che significa di grazia cotesta vostra osservazione? A chi mi ferisce nell'onore non ho che una risposta da fare. Il trafficante si quietò all'udir queste parole e soggiunse, con voce alquanto più sommessa, che era cosa incresciosa di aver stipulato un contratto e vedersi burlato a quel modo. Signor Haley, disse Shelby, se voi non aveste una qualche cagione di essere dispiacente, non avrei tollerato davvero la maniera rude e incivile di entrare in casa mia come avete fatto poc'anzi. Sappiatelo bene, nonostante le apparenze, io non soffrirò che qualcuno esprima sospetti intorno alla mia lealtà. Ben volentieri vi darò ogni aiuto possibile col prestarvi i miei servi, i miei cavalli e quant'altro occorre affinché possiate ritrovare ciò che vi appartiene. Haley, continuò egli a dire, passando subito da un fare freddamente dignitoso a quello che gli era abituale, di franchezza benevola. Il meglio per voi sarà di non inquietarvi tanto, di far colazione qui con noi e di veder poscia che cosa si potrà fare in vostro servizio. La signora Shelby non poté stare più ferma e, dicendo che le sue occupazioni non le permettevano di trovarsi alla colazione per quella mattina, uscì dalla sala. Venne poi, in sua vece, una zitellona mulatta a disporre ogni cosa. La vostra signora non vede gran fatto volentieri il vostro umile servitore, disse Haley, disponendosi con malgarbo a modi propriamente familiari. Non sono avvezzo a sentir parlare con tanta libertà di mia moglie, replicò il signor Shelby seccamente. Oh, domando scusa. Del resto, ho detto così per celiare, capite bene, rispose Haley, facendo un grande sforzo per sorridere. Vi sono celi più o meno gradevoli, soggiunse Shelby. Diamine. È divenuto molto più superbo dopo che io sottoscrissi quelle carte, borbottò fra i denti Haley. Che borbanza da ieri in qua. Non mai caduta di primo ministro cagionò impressione più viva quanto la notizia della sorte di Tom, subito sparsa tra i suoi compagni di schiavitù. Essa fu tosto argomento di tutti i discorsi, né altro più facevasi nella casa e nella piantagione che discuterne i probabili risultamenti. La fuga stessa di Elisa, cosa senza esempio in quella fattoria, non era che un accessorio in tanta commozione. Samuele, il nero, che era così chiamato per essere egli più nero di 3 gradi di ogni altro schiavo di quella piantagione, mostrava, nel discutere l'affare dal lato del suo interesse proprio, una profondità di concetti ed una perspicacia assai rara. È un fatto che un cattivo vento spira ora per di qua, disse Samuele sentenziosamente, dando una tirata in su ai propri calzoni e sostituendo un lungo chiodo dove mancava il bottone da sospendere lo straccale, della qual prova di ingegno meccanico pareva arcicontento. Sì, ripeté, Tom è caduto e per conseguenza si fa posto per qualcuno. E perché non per me? Questa è la mia idea. Tom se ne andava intorno cavalcando per il paese con gli stivali ben lustrati, col suo passaporto in tasca. Alla grande, insomma. E perché non sarebbe la medesima cosa per Samuele? Questo è ciò che non so comprendere. Olà! Oh, Sam! Sam! Gridò allora Andy, interrompendo quel soliloquio. Lesto! Il padrone ha ordinato di mettere le selle a Bill e Jerry. Che? C'è qualche novità, ragazzo mio? Ma non sapete dunque nulla? Mi pare che Elisa abbia fatto fagotto e se la sia battuta portando via il suo bambino. Ma per chi mi hai preso tu? Replicò Samuele con un altissimo disprezzo. Ecco un babbeo che pretende di far da maestro a sua nonna. Io lo sapevo prima di te, sono tutt'altro che un semplicione, io. Bene, ad ogni modo il padrone vuole che si allestiscano Bill e Jerry e che noi corriamo insieme col signor Haley sulle tracce di Elisa. Buon per me, ecco il gran momento, disse Samuel. Si brama adesso che Samuele presti l'opera sua, egli è il nero che bisogna. Oh, non c'è da temere che la mi scappi di mano, il padrone vedrà la mia bravura. Ehi, adagio, Sam, non tanta fretta. La padrona non ha nessuna premura che la sia raggiunta. Bada alla tua pelle. Oh, fece Samuele inarcando le ciglia. E come lo sai tu? L'ho udito con queste orecchie, proprio stamani, recando al padrone l'acqua per la barba. La padrona mi ha mandato a vedere perché Elisa non veniva come al solito a vestirla e quando io sono tornato dicendole che il merlotto era fuggito di gabbia, è saltata in piedi esclamando: «Sia lodato Iddio!». Il padrone poi mi sembrava impazzito e gli ha detto: «Moglie mia, tu parli da insensata!». Ma Dio buono, egli si ricrederà. So quel che dico, vedete? È meglio stare dalla parte della padrona. Credete a me che non si sbaglia». Mentre Andy così diceva, Samuele il Nero grattavasi il capo lanuto, entro cui, se non albergava un gran cervello, vi era almeno una considerevole dose di quell'abilità sì utile ai politici di ogni colore e di ogni paese, cioè quella di voltare la barca a seconda del vento che spira. Stando così, pensoso, egli diede un'altra tirata ai suoi calzoni, il che era in lui indizio di grande perplessità. «Non c'è che dire, eppure io avrei giurato», soggiunse con aria pensosa, «che la padrona avrebbe messo sottosopra cielo e terra pur di ritrovare Lisa». «Non c'è dubbio, ma non vedete chiaro sul mezzogiorno. La padrona non vuole che il bimbo di Elisa cada nelle mani del signor Haley. Qui sta tutto». «Ahi», fece Samuele con un accento inimitabile soltanto compreso da chi visse fra i neri. «Ora intendo». «Potrei dirvi molto di più, ma vi consiglio di andare a prendere i cavalli e presto, perché la padrona ha domandato di voi e abbiamo già perduto troppo tempo». Samuele corse allora in gran fretta a eseguire la faccenda ordinatagli e dopo brevi istanti si vide tornare baldanzosamente di galoppo con Bill e Jerry, non meno destro che un cavallerizzo di professione, saltò giù da cavallo prima d'essere al luogo della fermata.